guarda chi c'è nel letto con me. Chissà chi è veramente, chissà che vuole da me. E non mi domando mai il perché. Questa notte che si porta via il meglio di lei e di me, di lei e di me. Cosa farà? Cosa mai per me lei farà? E poi chissà se male un giorno lei mi farà. E non mi domando mai il perché. Di questa notte che si porta via il meglio di lei e di me. Quarta e ultima parte di Rock Legends con Ruben ospite di questa sera. Il titolo della canzone appena sentita si chiama Letto. Cosa attende il futuro prossimo a Ruben oltre all'uscita del disco? Si cercherà di farlo sentire soprattutto dal vivo, anche per radio, perché no, perché io amo moltissimo questo strumento. E poi si cercherà di lavorare su nuove canzoni, su nuovi recital. Io cerco sempre di essere in movimento, perché creativo. Più fai meglio è. E allora, prossima track? La prossima si chiama Giù. Vedo il cane spappolato al centro della via. Vedo l'uomo mutilato, la quiescenza al così sia. il santo impigliato nel gioco di mercato. Il barista infradiciato se cala il fatturato. La strada che non rotola più, giù, sulla strada che non ti torna più. Io sono come te, sono come te. Io sono come te, sono come te. L'amico tuo migliore che ti appende per la gola, è il padre premuroso che ti manda alla malora, è la madre più affettuosa che incatena la sua gonna, è il figlio più devoto che in ultimo ti inganna. La strada che non rotola più, giù, sulla strada che non ricordi più. Io sono come te, sono come te. Io sono come te, sono come te. Sulla sedia il ticchettio dei tasti mette fine alla cancrena ad un giorno senza fasti. Ronza pure mio computer, ribatti la mia vita. Fammela più dolce che presto è già finita. Sulla strada che non rotola più, giù, sulla strada che non ritorni più. Io sono come te, sono come te. Io sono come te, sono come te. E siamo arrivati alla fine della puntata, a voi ricordo i contatti per richiedere le vostre rock legends preferite o per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e le news su rock legends e suoi ospiti in anteprima. Un grazie a Ruben per la partecipazione, con auguri di futuro ritorno per le nuove release, e lascia pure i contatti web ed email per chi fosse interessato al disco e un piccolo calendario di live di prossima programmazione. Per il web direi il mio MySpace, www.myspace.com/rubenmyspace. La mail invece è rubenworld@libero.it. Per i live a gennaio partiamo, quindi seguitemi sul mio space e avrete tutte le novità. Con cosa concludiamo? Direi con Controluce. Gianluca e Ruben è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo in studio gli Elizabeth, formazione Brit Rock di Reggio Emilia, che ci presenterà il disco Ruggine. Ciao! Occhi troppi eroi, un bagliore nella luce, in questo mondo incontro luce, il dolore non dà pace, in questo mondo incontro luce. Un detto oscuro parla a noi, occhio per occhio, sta scritto lo sai, prova a resisterli se puoi, ti afferra e non ti molla mai. Un bagliore nella luce, in questo mondo incontro luce, e il dolore non dà pace, in questo mondo incontro luce. Ogni giorno un Cristo è in croce, in questo mondo incontro luce, una voce più non tace. Ah, in questo mondo incontro luce, una voce più non tace.